Vorrei chiamarti sola, ma tu che ne sai? Vorrei chiamarti gioia, ma tu che ne sai? Come il vento soffia e spezza le mie parole, che non sorridono mai, sono parole vuote che non arrivano mai. Vorrei gridare amore, ma tu che ne sai? Vorrei dire il tuo nome, ma tu che ne sai? Del silenzio ladro che avvolge quelle parole che si sussurrano al buio, sono parole sole che non si trovano mai. Cerco dentro il mare in tempesta, nella notte stellata, all'alba del primo giorno, guarda oltre la collina, nella neve in gennaio, di tre quarti di luna, tutti i lati del cielo, che io possa bruciare, se mi porti nel fuoco, cerco le mie parole, nei ritocchi del tempo, che non tornano mai, che non tornano mai. Tu che ne sai, come il mare sale, copre le mie parole, che non respirano mai, sono parole rose, che non emergono mai. Cerco nei miei spenti sorrisi, nella smania incantata, ogni tuo sguardo, nella sperduta luce, che somiglia al tuo mio pallido letto, e se non vieni a cercare che io possa dormire, per millenni anzimare, cerca le mie parole nel mezzano tormento, che non guarirò mai, che non guarirò mai, che non guarirò mai.